Birgitta. Gli alberi gemevano al vento nell'oscurità compatta. Grazie alla torcia del cellulare, Birgitta trovò la sciarpa rossa legata a un tronco. Poi si guardò attorno, prese il sacchetto dal bagagliaio e agitò la bomboletta di vernice. Stava per iniziare a spruzzarla sul cavo, quando si rese conto di essere troppo vicina all'auto. Niente tracce, pensò, per poi chiudere la portiera e allontanarsi di qualche metro. Verniciare il cavo richiese pochissimo tempo. I vapori le salirono alla testa, facendola ridacchiare. Quando ebbe finito, provò a illuminare il cavo con la torcia e constatò soddisfatta che non mandava nessun riflesso. Bene. Guardò l'ora. Nel giro di pochi minuti, l'uomo sarebbe arrivato. Aveva pensato di aspettare fino all'ultimo, perché non si facesse male la persona sbagliata, ma si rese conto che era molto improbabile che qualcuno passasse di lì. Nessuno, sano di mente, avrebbe attraversato un bosco in moto con quel tempo, a meno di esservi costretto. Tese il cavo, gli diede uno strattone di prova e tornò alla macchina per allontanarsi. Allungò una mano per aprire la portiera. Chiusa. Si tastò le tasche. Niente, le chiavi non c'erano. No, non adesso. Tutto, ma non questo. Gemette.